Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia per una giornatona di sport. Delle moto avete sentito poco fa con Massimo Di Scienza, delle biciclette di Torushov, del nuovo campione del mondo e della nostra delusione parleremo più tardi. Aspettiamo insieme il botto finale questa sera, ovviamente Inter-Juventus. A proposito di conniventi di San Siro, anche di questo parleremo dopo, che Milito non giocherà. Giocherà invece la stessa squadra che ha strabattuto il Werder Brema in Champions League. Ci sono anche i Knicks qui a Milano contro l'Armani Jeans e ci collegheremo nel corso di queste due ore pure con il forum. Sentiremo le vostre voci. Rosa al centralino per le vostre telefonate 800 24 00 24, numero verde. Intanto io faccio sentire subito la voce dell'allenatore capoclasse solitario è di Reia e la Lazio. E abbiamo sfruttato questa opportunità che ci ha concesso il Brescia. Diciamo niente, siamo soddisfatti, contenti. Questo risultato e questa classifica premia i ragazzi che dall'inizio di questo campionato, ma anche in preparazione, non hanno mai mollato una virgola. Gratificazione giusta. Le ha detto il segreto è giocare divertendoci. Quello che le chiedo, anche in partite dove magari c'è un po' più di difficoltà, perché oggi nel primo tempo contro il Brescia trovavate pochi spazi, poi è bastata veramente la fiammata di Hernanes per quell'ottimo assist a Mauri, anche se oggi Hernanes meno bene magari delle altre volte, e la Lazio che poi con un'ottima difesa è riuscita comunque a rischiare poco. Ma niente, intanto dietro stiamo disputando un grandissimo campionato perché chiudiamo bene gli spazi. I quattro giocatori della fase difensiva stanno lavorando benissimo, in modo particolare due centrali, che si parla poco di Biava. Dias lo conosciamo, ma di Biava si parla pochissimo, ma non ha sbagliato una gara quest'anno ancora. È sempre tra i migliori, sempre attento. E poi da metà campo in avanti abbiamo delle soluzioni con dei giocatori importanti, di qualità. E niente, siamo soddisfatti, siamo contenti e continuiamo così, possibilmente. Possibile. Questo è di Reia, il volo della Lazio bellissimo, molto meglio di quello dell'Aquila, su cui, ma questo è un dettaglio, sono abbastanza d'accordo con le parole molto dure di Paolo Di Canio sentite domenica scorsa. Cosa è successo oggi per quanto riguarda la Lazio? L'avrete intuito, se non lo sapete, una grande giocata di Hernanes, ma guarda caso, guarda che strano, del giocatore con maggiore talento di questa squadra insieme a Zárate, Hernanes, che pesca il corridoio giusto per la corsa di Mauri, ed è 1-0 il gol che decide questa partita, che spedisce la Lazio almeno per il momento e fino alle 11 di stasera più o meno da sola in testa alla classifica. Quanto al resto c'è la Roma che insomma oggi ha fatto capire a tutti di non essere affatto guarita completamente, ha fatto capire a tutti che insomma l'equivoco Totti in campo, Vucinic in panchina, Borriello intoccabile è un problema in questo momento, per quanto Ranieri si sforzi, si è sforzato anche ieri di nasconderlo sotto il tappeto. Il Napoli ha vinto 2-0, ha meritato di vincere questa partita, primo tempo molto equilibrato, nel secondo tempo il Napoli ha costruito tutta la legittimità della sua vittoria. Gol è arrivato al 27esimo con un grande D'Ossena, migliore in campo probabilmente sulla sinistra, a pescare Hamsik a rimorchio, il piatto del giocatore napoletano, e il gol dell'1-0. Un gollonzo invece il raddoppio al 38esimo con un cross dal fondo basso di Campagnaro, e lì Juan nel tentativo, probabilmente Juan, che è stata un'azione molto confusa, certamente un'autorete, nel tentativo di anticipare Cavani, e fa 2-0. Poi c'è stato l'1-1, e sono due i pareggi del pomeriggio, 0-0 tra Chievo e Cagliari, 1-1 tra Bologna e Sampdoria. Anche qui abbiamo visto una cosa curiosa, credo che Cassano oggi abbia sbagliato il gol più facile della sua carriera, uno dei più facili. Sebbene viziato da una scorrettezza del giocatore sandoriano non vista da Baracani, si è liberato con un fallo sulla sinistra, poi ha saltato tutta la difesa, compreso il portiere, e poi ha sparato addosso a Portanova, che gli ha ribattuto il tiro. Sul Portanova, protagonista anche del vantaggio della Sampdoria, in negativo in questo caso, al 46esimo del primo tempo, cross da sinistra di Semioli, autorete, davvero maldestra di testa del difensore del Bologna. Il pareggio arriva meritato, io credo, al 20esimo con Tissone che sbaglia in maniera abbastanza goffa un intervento di rinvio, e Britos che da due passi segna il gol dell'1-1. C'è da segnalare anche una bellissima partita e un colpaccio, quello del Palermo a Firenze. Palermo gioca un primo tempo strepitoso, aperto all'ottavo traversa di Ilic e subito dopo al 20esimo dal gol forse più bello della giornata, anzi levo il forse, con un tiro di Ilic da 25 metri per il gol, all'incrocio dei pali per il gol dell'1-0, 3 gol in 5 partite per questo giocatore che fino a un mese fa pochissimi conoscevano, 21 anni preso per davvero per pochi soldi, per poche lirette, meno di 2 milioni di euro, e che al momento si sta rivelando uno dei giocatori più interessanti del campionato intero. Al 37esimo la Fiorentina sembra andare in briciole, perché basta una triangolazione lunga tra Pastore e Nocerino per mettere l'argentino davanti a Fre. Pastore lo salta, segna il gol del 2-0, la Fiorentina davvero al tappeto. Si risveglia a inizio ripresa con il gol di Gilardino, Santana sulla sinistra, Gilardino classico gol in anticipo su Bovo, e subito dopo al 18esimo c'è un fallo molto discusso e discutibile di un mano di Balzaretti, Mazzoleni concede rigore, gli Aic se lo fa parare da un Sirigu davvero in formato nazionale, in formato superstar, strepitosa una sua parata oltre che questo, su questo rigore, una sua parata subito dopo su una conclusione di Gilardino. Al 29esimo espulsione di Montolivo per fallo su Bovo, e praticamente le ambizioni e le velleità della Fiorentina di pareggio finiscono lì. Vi racconto dopo di Genoa-Bari, intanto vi faccio sentire Ranieri in diretta con Sky. I padroni del campo, riuscivamo a controbattere colpo su colpo, poi invece due contropiedi del Napoli evidentemente ci hanno generato paura, non siamo più stati in grado di continuare a fare la nostra partita, e poi abbiamo mollato sul primo gol e non ce l'abbiamo più fatta riprenderci. Però sapevamo di dover lavorare, sappiamo che non siamo la Roma dell'anno scorso, stiamo lavorando e ci riprendiamo. Ecco, lei ha detto abbiamo mollato, è un problema a questo punto di natura anche mentale, no? Di approccio, visto che questa è la terza sconfitta fuori casa, insomma lontano dall'Olimpico, non riuscite a produrre punti e si è visto insomma un gioco decisamente non bello come quello che abbiamo visto all'Olimpico. Sì, beh, questo è strano, perché appunto l'approccio era stato buono, per cui di solito quando giochi è l'approccio che viene meno quando stai in un momento di difficoltà, e invece noi evidentemente dopo le due partite vittoriose volevamo far bene anche qua, però c'è stato il Napoli che è stato più bravo di noi, dobbiamo soltanto reagire e continuare a lavorare. 3-5-2, modulo inedito per il Napoli, e soprattutto la sostituzione Borriello Vucinic. Beh, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso qui, dove aveva prodotto ottimi risultati. Borriello Vucinic, vedevo Borriello stanco, non avevamo più la possibilità di tenere la palla in avanti, allora ho tentato con Vucinic di avere la profondità e di mettere in crisi la difesa del Napoli, non è riuscito. Peccato. Studio. Questo era Claudio Ranieri. Dopo il traffico vi dico del 2-1 con il quale il Genoa ha battuto il Bari. A dopo. Eni vi presenta Strade in diretta. 17:15, iniziamo subito dal tratto lombardo della A4, dove ci sono 4 km di coda per un incidente risolto tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Sempre in A4, ma in Veneto, code di 2 km per lavori nei pressi di Dolo Mirano verso Padova. Sulla diramazione Galarate-Gattico, l'uscita di Sesto Calende resta chiusa per un incidente in direzione della 8 dei Laghi. Rallentamenti per un incidente, ci spostiamo al sud sulla 3 Salerno-Reggio Calabria all'altezza del raccordo Sicignano-Potenza in direzione di Reggio. Sulla 15 della Cisa ci sono 2 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 7 Milano-Genova si rallenta per un mezzo fermo in panne tra il Bivio 12 e quello per la 10 in direzione Genova. Sulla 14 Adriatica ci sono code per lavori verso Pescara tra Pedaso e Grottammare. In direzione opposta rallentamenti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Il traffico intenso attorno a Roma sulla grande raccordo anulare, nell'area fiorentina sull'autosole e a Milano sul tratto urbano della 4, soprattutto verso Torino. Circolazione sostenuta anche sulla diramazione per Pisa all'altezza di Navacchio in entrambe le direzioni. Ed è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Vi ricordo il contatto 800240024 per parlare di calcio, ma non solo, per parlare di sport da qui fino alle 19, messaggi 349-238-6666. E c'è già chi scrive una cosa anche abbastanza condivisibile come questa: al di là del risultato di Firenze, Mihajlovic è una mezza delusione, finora non è ancora stato in grado di schierare una difesa credibile, aspettiamo la qualità di Mutu. Questo è vero, perché la Fiorentina ha mille infortuni, ha avuto mille problemi, però quando hai così tanti problemi si insegna a curare in maniera particolarmente dettagliata la fase difensiva, tutto il resto viene dopo. la Fiorentina non lo sta facendo, basta guardare il gol, soprattutto il secondo gol subito oggi con Pastore. Dicevo della vittoria del Genoa sul Bari, Bari che era partito benissimo con un palo di Barreto al 12esimo, poi al 36esimo Palacio che salta Andrea Masiello e segna, proteste del Bari per un fallo di Toni in avvio di azione. Al 7° della ripresa Moretti aggancia Castiglio in area, rigore ed espulsione. Trasforma Barreto 1-1, però il Genoa ci crede e ci crede fino alla fine, tanto che segna al 50° del secondo tempo, al 5° di recupero con un colpo di testa di Toni. Vittoria che mi sento di dire comunque meritata. Intanto io saluto e ringrazio la prima ospite di oggi, Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra, grazie. Ciao a voi, grazie a voi. Così allarghiamo il discorso anche a quanto abbiamo visto ieri sera, perché siamo andati a dormire con il Milan in testa alla classifica, Milan che tu hai seguito, e Milan che, nel quale mi sembra i conti comincino lentamente a tornare, anche se mi è difficile immaginare stabilmente un assetto come quello di ieri sera. Ma certamente è difficile immaginare un assetto come quello pensato da qualcuno nei bar sport estivi che sì, tutti ci divertiamo a portare avanti, a inscenare, certamente. Esatto. Mi pare impossibile che Allegri decida prima o poi, anche nel massimo grado di benessere, di forma di tutti, di schierare insieme Robinho, Pato, Ronaldinho, Ibrahimovic. Credo anche che sarebbe controproducente, perché si pescherebbero continuamente i piedi, questo almeno è la mia opinione, sì, considerando anche che il Milan dispone anche di Zedorf e soprattutto di Pirlo, che è un giocatore che sta rinascendo, che dopo stagione di calcio banale o semibanale sta tornando ai livelli che credo competano a un centrocampista della sua bravura, della sua razionalità e del suo talento. Senti, ma Pirlo e Zedorf insieme in questa squadra, per cui ho detto mille volte, per decreto presidenziale Ronaldinho deve giocare, grosso modo si gioca con tre punte, tu li vedi? In alcune situazioni devo dire che ieri Ronaldinho si è sacrificato abbastanza, io l'ho visto fare un recupero fenomenale per i suoi diciamo standard dinamici dal finale della partita, quindi se lui se la sente io penso che si possa anche fare, ovviamente magari non contro l'Inter perché insomma sarebbe probabilmente un suicidio, però in altre situazioni sì, d'altra parte c'è anche che con squadre che appunto si difendono in maniera pervicace forse è meglio, visto che il Milan può farlo, schierare un potenziale offensivo maggiore, perché sinceramente secondo me ieri il problema del Parma, che aveva cambiato il modulo e tutto, è stato la condotta di gara molto remissiva per gran parte della partita. È chiaro che giocare in maniera spregiudicata contro una squadra come il Milan magari riesce difficile da pensare a tanti allenatori, perché ti sembra quasi di consegnarti mani e piedi al loro talento, alla loro capacità offensiva, però anche in questo modo non è che alla fine, tanto più che adesso il Milan dispone di un attaccante come Ibrahimovic, che anche se ieri non ha brillato e anzi diciamo che si è mangiato in un paio di situazioni impossibile, però ha un tale strapotere fisico e anche una tale arroganza positiva diciamo in alcune situazioni che risulta quasi impossibile da bloccare, per cui ecco sinceramente io penso che il Parma fosse ieri, per quello che è successo ieri, un pochino debba fare il mea culpa. Sì, lo penso anch'io Alessandra. Tanto sentiamo insieme una battuta sempre con Sky di Sinisa Mihajlovic. Ma perché la Fiorentina gli ha concesso il primo tempo? Perché? Anche io mi chiedo. Sicuramente il primo tempo è regalato, il secondo tempo se avessimo giocato come abbiamo fatto nel secondo tempo vincevamo la partita, comunque nel primo tempo eravamo compassati, lenti, con la paura di giocare, abbiamo fatto il gioco loro, noi ho chiesto sempre di giocare a ritmi alti perché sapendo che loro comunque sono già da 3-4 settimane che giocano 3 partite a settimana, oggi faceva caldo a Firenze, dovevamo alzare i ritmi, invece abbiamo fatto gioco loro, lenti, compassati, paurosi, questo bisogna analizzare, ma adesso comunque quando ritornano tutti poi se ne parla. Poi secondo tempo, quando diciamo non abbiamo avuto più nulla da perdere, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo fatto gol, abbiamo sbagliato rigore, abbiamo preso palo. Sicuramente se avessimo fatto gol con gli Aic mancava ancora 20 minuti alla fine, sapendo che loro comunque a fine questa è l'analisi di Mihajlovic, che da cui traspare una squadra in difficoltà, perché questa è la realtà, al di là del fatto che il Palermo è stato meraviglioso nel primo tempo. Sempre con Alessandra Bocci, vorrei rispondere al primo ascoltatore di oggi che è Luca da Torino. Buonasera. Sì, buonasera. Il Dica. Piacere è ripetitivo, ma è sempre notevolissimo ascoltarvi. Grazie. Ecco, allora io sono un ex ispettore di polizia. Sì. E quando sento dire certe cose da certi dirigenti, sì, tipo il signor Ranieri, che dice è ingiusto che i tifosi non vengano a Milano. Forse il signor Ranieri non c'era all'entrata di Inter Roma di Supercoppa. Quello che hanno fatto, quello che potevano fare i tifosi romanisti, perché questi, cioè i tifosi romanisti, i tifosi, sì, in genere, sì, cioè, sono certuni, sono dei gruppi di delinquenti vestiti di viltà e omertà. E si deve, cioè, non so se in Italia si potrà porre rimedio, ma sicuramente non è la testa del tifoso, anche perché queste persone, sì, diciamo così, sono foraggiate sia mediaticamente che anche finanziariamente da certa dirigenza. Mediaticamente non ho capito in che senso. Mediaticamente vuol dire sui giornali sono tipo foraggiati, no? Incitati, insomma, ad andare a vedere la partita, e con la scusa della partita poi chi si vinca, che si perda, si faccia. Certamente, no, ma sono tutte considerazioni che hanno diritto di cittadinanza, anche se ieri notavamo, e vorrei girare la considerazione ad Alessandra Bocci, come l'ascoltatore Luca parlava di Ranieri, però sappiamo bene com'è stata la settimana che ha preceduto la partita di questa sera di Juventus-Inter. Ieri ho avuto l'ardire di dire, Alessandra, che certe volte i tifosi invece hanno, in alcuni casi naturalmente, espresso una maturità maggiore, dimostrato una maturità maggiore rispetto agli attori protagonisti. Sono d'accordo. Voglio solo far notare, io non sono interista, sono, diciamo, abbastanza neutrale nel calcio, sì, però ho tanti interisti in famiglia e mi accorgo che molti interisti, soprattutto quelli, diciamo, di vecchia, di antica data, non dico che rifiutino il famoso scudetto avuto a tavolino, ma insomma lo considerano uno scudetto minore, se ne disinteressano abbastanza, probabilmente anche per il fatto che poi ne hanno vinti altri, quindi è facile disinteressarsene. Quello che voglio dire è che mi sembra che in questa vicenda ci sia un accanimento da una parte ma anche dall'altra. Sono state fatte delle dichiarazioni sinceramente che ho trovato fuori luogo, ecco. Sì. Io penso che quando si dice bisognerebbe abbassare i toni, è una frase fatta, ormai lo diciamo da non so quanto tempo, però sinceramente credo che in certe situazioni bisognerebbe farlo, e hai perfettamente ragione che ci sono state delle situazioni, ci sono tuttora, in cui i tifosi, o almeno una grande parte dei tifosi, sì, hanno manifestato una compostezza, una capacità, insomma, di analisi probabilmente maggiore di certi, sì, dirigenti. Sì, Alessandra, io ti chiedo ancora un'ultima cosa, di aiutarmi a rispondere invece ad un'ascoltatrice che ha utilizzato quell'arnese di Facebook per interrogarmi sullo sfogo di Gattuso di ieri sera. Non so se avrete sentito Gattuso che dice: ma con Leonardo non andavo d'accordo, Allegri invece un'altra cosa. E qualcuno lo ha trovato fuori luogo, questo sfogo. Io personalmente no, mi sembra una storia del tutto normale tra un allenatore che non faceva giocare un giocatore e il giocatore che adesso gioca e si leva qualche sassolino dalle scarpe. Ma io dico soltanto questo: abbiamo trovato, almeno molti hanno trovato molto intelligente e pregevole l'intervista rilasciata da Leonardo alla Gazzetta, sì, a Luigi Garlando, quando ha detto, ma diciamo puntualizzato ancora una volta in maniera anche più precisa quello che pensa di Berlusconi. Allora non capisco perché Leonardo è intelligente, garbato e bravo se puntualizza le cose riguardo al suo non presidente, come lo chiamo io, perché per un motivo puramente formale non lo è, comunque al padrone del Milan, mentre invece Gattuso non può fare lo stesso in maniera, mi sembra, tutto sommato civile nei confronti del suo ex allenatore. Certo. Aggiungo anche che noi giornalisti spesso ci lamentiamo di questi giocatori che dicono soltanto banalità. Bravissima. Quindi, se ogni bravissima. Tanto qualcuno osa andare un po', diciamo, non dico sopra le righe, ma fuori dalla banalità e dalle frasi preconfezionate, ben venga. Ma volesse Dio, io infatti sono uno di quelli che sente la nostalgia di Mourinho. Non sono interista per nulla, però a me piacciono i personaggi nello sport, non solo nel calcio, e nel calcio si fa davvero fatica a trovarli, perché tu lo sai meglio di me, tirare fuori con le pinze qualche parola interessante diventa un'impresa impossibile in qualche caso. Sì, sì, poi secondo me rispetto a Mourinho Gattuso ha il vantaggio di una certa naturalezza. Secondo sicuro. Me Mourinho è così perché è una persona intelligente, perché ha capito che comportandosi in un certo modo, lui non è più un allenatore, lui è José Mourinho, che è un'altra cosa, che è oltre, diciamo, come mi dicono i miei colleghi amici spagnoli, lui crede di essere Dio, è un pochino, anche io la penso così. Gattuso è abbastanza naturale nelle sue reazioni, credo che lo scorso anno, in effetti, insomma, qualcosa non abbia funzionato. È vero che lui stesso, mi sembra lo abbia detto ieri, lui ha avuto dei grossi problemi fisici perché ha strafatto volendo, secondo me, andare alla Confederations Cup quando non era ancora pronto, perché lui teneva moltissimo la nazionale, e poi ha pagato le conseguenze. Credo che sia legittimo da parte sua dire che preferisce magari lavorare con Allegri piuttosto che con Leonardo, così come in altre situazioni magari qualcuno ha preferito lavorare con Mourinho piuttosto che sicuro, con Benitez. Sicuro. Stasera come finisce? So che è una domanda che non dovrei fare. Come finisce? Io spero che finisca con tanti gol, sì. Con reazioni civili da parte di tutti. Bravissimo. Mi riferisco più ai dirigenti che ai tifosi. E poi una lezione dei tifosi e ai dirigenti, magari. Esattamente. Poi, siccome da questo punto di vista sono un pochino interessata, perché è uno dei miei giocatori preferiti per molti motivi, io spero che segni Wesley Sneijder. Questo è tutto quello che chiedo alla partita. Grazie Alessandra, un abbraccio. Grazie a voi, sempre un piacere. Sempre un piacere chiacchierare con Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport. Posso parlare con Mario, chiedo alla regia, prima di andare un attimo in pausa. Mario, buonasera. Buonasera dottore, grazie per la compagnia, viaggiando ci fa compagnia. A lei Mario, dica. Senta, al di là della difesa che faceva acqua anno e fa acqua anche quest'anno. Sì, ma parlando di Fiorentina, ovviamente. Sì. Ma secondo lei, due nazionali come Girardino e come Montolivo, anche se Girardino oggi ha segnato, sì, ma si può permettere un centravanti di sbagliare 10 reti per domenica? Non ha giocato bene Girardino, però l'ha messa. E questo fa la differenza tra un grande centravanti e un centravanti così. Io credo che Girardino sia un grande centravanti. Non sta giocando molto bene, ma d'altra parte è uno di quelli che ha bisogno di avere il motore dietro le spalle. No? Non gli arrivano poi tantissimi palloni, quelli che gli arrivano non sono esattamente puliti. Mi sembra che la Fiorentina, Mario, io ripeto quello che ho detto prima, mi sembra una squadra in difficoltà. Anche tattica, perché quando sai che hai l'organico ridotto, quando sai che hai problemi di infortuni eccetera eccetera, il primo comandamento è non prenderle, e non mi sembra esattamente quello applicato almeno oggi nel primo tempo, perché oggi nel primo tempo il Palermo sembrava il Brasile di Pelé, di Garrincha. Quindi certamente la Fiorentina ha un problema almeno di approccio e di equilibrio. Mario, grazie, torni a trovarci. Grazie a lei. A presto, grazie. 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo. 100 straordinari capolavori, i ritratti. Canova, Hayez, Boldini, Boccioni, Balla, Modigliani. Da tutto il mondo, uniti in una grande mostra. Da Canova a Modigliani, il volto dell'Ottocento. Padova, Palazzo Zavarella. E questo è il nostro impianto di illuminazione. Utilità festeggia 10 anni al servizio delle imprese per la fornitura di elettricità e gas. Chiedi un preventivo gratuito su utilita.com. Insieme troveremo la soluzione ideale per la tua azienda. Amore, ho comprato un nuovo box. Dai, per il bambino. No, per il caddy. Il miglior caddy di tutti i tempi, con nuovi motori Euro 5 che riducono i consumi e ESP di serie su tutta la gamma, ti aspetta presso i concessionari Volkswagen Veicoli Commerciali. Speak easy! Hello, sono Clive e vi porto grandi novità. Il primo corso di inglese con la musica. In 14 CD, I'll teach you English through songs. Vi insegnerò inglese a forza di canzoni. Siete caldi? Are you ready? Il secondo CD Speak Easy è in edicola. A soli 8,90€ in più. Solo con Famiglia Cristiana. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani mattina prime piogge in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Ovest Lombardia, Toscana, Venezia Giulia e nord della Sardegna. Nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno a tutta la Lombardia, all'ovest del Veneto, al Trentino, all'Emilia, all'Umbria e al Lazio. Giornata prevalentemente poco nuvolosa su medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia. Le temperature caleranno al nord, saranno in lieve risalita sul medio Adriatico al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e per il meteo è tutto. A volte per scoprire nuovi mondi non serve un'astronave. Basta un pianoforte. Alien. Il nuovo album di Giovanni Allevi. Da sempre ci chiediamo chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Ma forse la domanda vera è come ci andiamo? Be or not to be? Semplice. B. Classe B. Da 290 euro al mese, senza anticipo, né rata finale. Sabato 9 e domenica 10. TAN 6 e 10, TAEG 7 e 10. Offerta valida fino al 30 novembre, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Info mercedesbenz.it. Classe B. Ogni dubbio è superfluo. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma. Con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. State ascoltando un programma offerto da Eni, a tempo di sport. Ecco che torniamo, non mi sembra di aver criticato Ronaldinho oggi, di aver espresso critiche, ma c'è chi le ha sentite lo stesso scrivendomi le sue solite, noiose, stucchevoli critiche sterili su Ronaldinho, le impediscono di esprimere un giudizio razionale su come gioca. Io continuo a pensare che in questo momento e con questo Ronaldinho il gioco non valga la candela, continuo a pensare che il Milan migliore sarebbe con Ibrahimovic, più facciamo Pato e un centrocampo più di sostanza, più equilibrato. Però tant'è, sono questioni di gusti, insomma. Sembra che grosso modo tutti gli ultimi CT delle nazionali brasiliane abbiano i miei stessi gusti, perché mi sembra che Ronaldinho non abbia fatto il mondiale e che anche adesso nel nuovo corso non sia stato chiamato. Poi vediamo. Comunque, Hamsik con Sky, mare chiaro. Divertente per tifosi e ancora più bello che abbiamo vinto. Ilaria, mare che non si toglie il cappellino perché non ha messo il gel e quindi non vuole far vedere i capelli. Come? Che peccato. No, anzi, lei deve ce li faccia vedere i capelli senza gel, perché questa per è favore, assolutamente una... È obbligatorio, se no stiamo male tutti. Leva il cappellino, niente, non leva il cappellino nero, lo tiene su. Appunto. Ma anche col gel. Che amarezza. Non è che sono proprio belli, diciamo così. Sono divertenti, dai. Sì. Ma invece è bello vederli, questi capelli ribelli, io me li immagino, non è so, un cespuglio, però, veramente andiamo avanti così. Vediamo. Sentiamo. Le faccio vedere un'altra cosa, lei non mi fa vedere i capelli, ma io le faccio vedere la classifica, le emoziona lì essere così in alto, manca questo l'appello. Questo ci interessa già di più, cosa dite? Tra Inter e Juventus, 800 24 0024, numero verde. Col botto, come Mare si chiaro, dice Hamsik. Sì, sicuramente sì, siamo contenti di classifica, però come ho detto è solo iniziata la stagione, classifica è corta, come vedo adesso se perdi una partita ti scavalcano sei squadre, allora è molto combattuto sto campionato. Sì, è così Hamsik, non dichiarazioni epocali, è peccato per i capelli, insomma. Classifica che vi leggo, non ho ancora fatto, alla luce anche dell'anticipo delle 12:30, roba non indimenticabile, però vittoria importante per il Lecce che ha battuto 1-0 il Catania con gol di Corvia al 36esimo del primo tempo. Lazio 13, da sola là davanti, quindi a 11 Napoli e Milan, poi Inter e Chievo a 10, Brescia 9, Palermo, Catania, Genoa, Bari, Lecce 8 punti, a 7 troviamo al momento la Juventus insieme a Cagliari, Sampdoria, Bologna e Cesena con 5 punti al penultimo posto della classifica, e qui abbiamo voglia di dire su chi l'avrebbe detto, Fiorentina, Roma, Parma, ultima da sola con 4 punti dopo la vittoria di ieri, l'Udinese. Enzo Danna, buonasera da Napoli. Sì, buonasera Carlo. Poi vado a Roma, buonasera, dove c'è già Maurizio, ascoltatore prenotato, 800 24 0024, vi ricordo il numero verde. Enzo Danna, come ha giocato Totti oggi? Questo mi interessa molto. Guarda, era molto temuto per la verità, sia lui che Borriello. In realtà hanno giocato tutte e due abbastanza sottotono. Sì. Totti ingabbiato molto bene dalla difesa del Napoli, ha provato qualche suggerimento, ha provato a ispirare soprattutto nel finale quando la partita era ormai già compromessa, Vucinic che era entrato da pochi minuti, direi tutto sommato sottotono la sua prestazione, come quella di Borriello, non quella della Roma nel suo complesso, la Roma che nel primo tempo è rimasta in partita e all'inizio del secondo tempo ha dato la sensazione di essere scesa in campo con una maggiore determinazione. Infatti ha messo un po' in difficoltà il Napoli nella fase iniziale, poi proprio grazie ad una ripartenza il Napoli ha trovato il gol che ha sbloccato la partita e a quel punto poi la gara è diventata in discesa per Lavezzi e compagni. Lavezzi oggi davvero incontenibile. Sì. E devo dire che i tifosi temevano molto l'ambiente, temeva molto la stanchezza. Sai che il Napoli ha giocato, certo, una partita giovedì sera molto tirata. Devo dire che non ha risentito assolutamente della stanchezza, anzi la squadra ha corso per 90 minuti dall'inizio alla fine. Evidentemente queste partite di giovedì sera, tra l'altro disputate in trasferta, hanno questa partita di Bucarest in particolare, sì, ha galvanizzato la trovo, squadra trovo che inutile ha giocato però, con grande determinazione. Certo, trovo inutile però lamentarsi dei calendari, questo da parte di tutti, no? C'era ieri chi sottolineava, mi pare un ascoltatore via SMS, e però noi della Juventus ci hanno fatto giocare al giovedì, l'Inter ha un giorno di riposo in più, insomma sono i calendari internazionali e sono i calendari interni quelli che dicono che si gioca alle 12:30, il resto è mancia, compreso il fatto le lamentele, non si può giocare a mezzogiorno, questo non è calcio, ma dove sta scritto, insomma. Io penso che sia meglio giocare anche col caldo che ancora fa alle 12:30 di ottobre piuttosto che a gennaio di notte, come d'altra parte i giocatori con questo pasticcio del turno della Befana hanno invece stabilito, no? Perché era in programma un turno normale al pomeriggio e invece si posticipa tutto e si va a giocare un'altra notturna a gennaio. Questo mi pare un po' più strano. Grazie a Enzo Danna da Napoli. Andiamo un po' di corsa perché abbiamo Maurizio, ma abbiamo anche Delio Rossi che sta parlando con Sky. E quando saranno pronti sarà un problema gestirli secondo te? No, anche perché giocherà chi è più in forma e soprattutto chi è più funzionale alla squadra, anche perché nel momento stesso che uno firma il contratto, prima di tutto deve vincere concorrenza esterna e poi deve fare bene per meritarsi il posto. Quindi per una squadra di medio livello qual è il Palermo è giusto che ci sia una concorrenza interna. Nel momento stesso che poi uno pretende il posto titolare perché glielo deve dare Dio, meglio che vada a giocare in una categoria inferiore. Delio, ma io ti conosco molto bene e ho sentito, sì, un'intervista del tuo presidente dire che tu sei bravissimo in attacco ma hai da imparare in fase difensiva. Ho sentito Zamparini a una radio nazionale dire così. Cioè, tu che cosa pensi di queste cose? Perché te l'avranno detto che avrà fatto un'intervista dove ha detto cose di questo tipo. Sì, ma ne ha dette tante altre, non è che ha detto solo queste, forse male solo di queste. Bravissimo. Bravi. Delio Rossi è uno dei miei preferiti, non da oggi, l'ho sempre dichiarato. È una di quelle che gli ha detto fin qua, mi sa, Io penso invece che un allenatore penso che sappia fare meglio la fase di non possesso, perché è quella che riesce anche più facile. Penso che anche un qualsiasi allenatore di Serie B mediocre riuscirebbe a fare la fase di non possesso. Il problema è invece assemblare, dare un raziocinio quando hai una squadra molto giovane, gente che ha 19 anni e che gioca in un campionato dove ci sono dei giocatori importanti, le squadre importanti, soprattutto non avendo tempo di lavorare, perché questa è la settima partita in 21 giorni, quasi sempre con gli stessi giocatori. Infatti il secondo tempo paradossalmente siamo calati e qualche problema l'abbiamo avuto. Paradossalmente nemmeno troppo, è chiaro che Palermo è un po' spremuto fisicamente ma sta benissimo. Anche oggi ho giocato un primo tempo da cineteca, secondo me. Maurizio dalla provincia di Roma, poi ne parliamo, poi torniamo su Fiorentina Palermo. 800 24 00 24, il vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Maurizio, dunque, buonasera dottor Genta. Buonasera. Io sono un tifoso del Milan e per quanto riguarda Ronaldinho la penso esattamente come lei e penso che siamo tanti a pensarla come lei. Quindi, ma tanti o pochi non lo so, opinioni. Però tanti o pochi non lo so, questo è semplicemente il mio pensiero, cioè è stato... No, ma il pensiero di tantissimi tifosi te lo posso garantire. Per quanto riguarda quel resto volevo esprimere un concetto che è questo. Secondo me Ibrahimovic al Milan lo ha fatto bene non soltanto in fase realizzativa, perché penso che un giocatore normale quei tre gol con il Genoa, con la Lazio e con l'Ajax, non so se li avrebbe realizzati, perché non erano dei passaggi ricevuti fantastici. Poi era Ibrahimovic, secondo me, nel complesso dà maggior fiducia alla squadra, perché a volte ho l'impressione che Gulliver nel paese dei russiani, cioè c'è una differenza fisica tra Ibrahimovic e le altre le difese avversarie che consente alla squadra di salire, di respirare, di avere maggior fiducia, maggior coraggio. Ma certo che è così. Penso che l'acquisto di Ibrahimovic insieme ad Allegri, che è un allenatore che sta dimostrando intelligente, possano davvero dare molto al Milan. Questo volevo un suo parere su questo. Ma no, ma ha ragione, è anche il mio. Ibrahimovic è un fuoriclasse, è il più forte giocatore del Milan, è un giocatore che, l'ho detto mille volte, soprattutto nel campionato italiano, ti cambia la vita. Il problema è adesso metterlo nelle migliori condizioni di essere Ibrahimovic. Come mi è capitato di dire ieri, si parlava di Allegri che dice Ibrahimovic dipendenti, non Ibrahimovic dipendenti. Ma è chiaro, se hai Ibrahimovic, è lui stesso come giocatore che ti chiede la dipendenza. Perché è il finalizzatore, è quello che ti risolve i problemi, è quello che ti detta i tempi, che ti detta il modo di giocare. Quindi è una dipendenza piuttosto scontata quella da Ibrahimovic, ma ne vale la pena, io credo. Vedo anche un ex milanista, cioè Borriello, che ha i microfoni di Sky. Oggi ha giocato così e così. Invece sulla partita, perché Borriello è stato il cambio arrivato quando si era sullo 0-0 e la Roma da quel momento ha fatto fatica soprattutto a tenere palla davanti. Tu ti sei costruito due palle gol nitide, molti falli hai subito dai difensori del Napoli, facevano un po' respirare anche la difesa a tre di oggi. Ranieri ci ha detto a caldo che eri stanco. Puoi confermare o ti sentivi ancora bene? Secondo me erano più stanchi i difensori del Napoli. A starle dietro. Ma quelli Ranieri non li può stavo cambiare. Bene. Stavo bene, avevo più che altro sempre la sensazione che prima o poi riuscivo a trovare il varco giusto per far gol. Poi è arrivata la sostituzione, sono rimasto un po' meravigliato, però sono decisioni che bisogna accettare, perché c'è un allenatore e bisogna rispettare le scelte dell'allenatore. Guardi l'aria, non ero stanco. Morale, benissimo, non l'ha presa, no? L'avete capito anche da soli. 800 24 00 24, numero verde, chapeau a Borriello che almeno non ha detto no, ero stanco, rispetto le decisioni del mister, non gli è andata giù e l'ha detto in maniera piuttosto chiara. Traffico poi Firenze. Eni vi presenta Strade in diretta. In Lombardia sulla 4 ci sono rallentamenti per un incidente risolto e per traffico tra Sirmione e Brescia Est in entrambi i sensi di marcia. Rallentamenti per un incidente sulla 3 Salerno-Reggio Calabria all'altezza del raccordo Sicignano-Potenza verso Reggio. Sulla 15 della Cisa ci sono 2 km di coda all'interno di un cantiere tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 14 Adriatica si rallenta per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Lavori anche sulla diramazione per Pisa, si viaggia lentamente all'altezza di Navacchio in entrambe le direzioni. Traffico intenso attorno alle grandi città, in particolare code e rallentamenti nella zona di Roma, nell'area fiorentina, a Napoli e a Milano. Ed è tutto, Strada in diretta, torna tra mezz'ora. Promo 24. Nasce un progetto per dare al paese un futuro digitale, un progetto firmato Telecom Italia. Nasce la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia, dedicato alle imprese pubbliche e private. Le aziende non dovranno più dotarsi di infrastrutture, piattaforme e applicazioni IT interne, perché è tutto nella nuvola. Così tutto è più efficiente, semplice e flessibile, perché si usa e si paga solo quello che serve e non tutto il server. Con la Nuvola di Telecom Italia, il paese diventa innovativo, efficiente, competitivo e ancora più ricco di opportunità per ognuno di noi. Oggi tutto questo è nell'aria con la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia. A tempo di sport. Torniamo, diversi messaggi. Questo Palermo è da Champions, Stelio Rossi e Zamparini da un paio d'anni effettuano una campagna acquisti sensata, cosa che non è avvenuta alla Juve al Milan. Chiaramente sono, caro ascoltatore, esigenze un po' diverse, quelle del Palermo e quelle della Juventus e del Milan, molto bravi però, effettivamente molto bravi, perché nelle ultime due stagioni di colpi ne hanno sbagliati forse zero, da ovviamente Pastore, chi era adesso questi ragazzi, a cominciare da questo Ilicic che oggi al di là del gol straordinario che ha fatto, poco prima aveva colpito un palo, però sono diverse partite, non solo di campionato, che gioca a dei livelli da potenziale grande giocatore. Non so se l'ha visto così anche Ubaldo Cianciulli allo stadio. Sì Carlo, buonasera. Sicuramente lo sloveno ha un bel tiro, è un bel giocatore ed è uno di quelli che al centrocampo ha messo in crisi la Fiorentina. Diciamo però che se merito del Palermo è da riconoscere al centrocampo, demerito della Fiorentina è da riconoscere alla squadra nel proprio complesso, che ancora una volta ha regalato un buon primo tempo agli avversari. Mihalovic ha fatto il mea culpa, però comunque Donadel ha detto lo stesso, ha detto praticamente è un problema soprattutto di testa per la Fiorentina, che non riesce a superare questa crisi di identità. Secondo me è anche un problema che arriva un po' più da lontano, cioè diciamo da marzo scorso, quando la Fiorentina è persa Mutu e lo ha tuttora perso, e la società non è stata in grado di sopperire allora a questa assenza. Ricordiamoci che a gennaio scorso Corvino cercò in tutti i modi di prendere Cassano, Di Natale, ma gli andò male. Quest'anno a giugno non è riuscito a trovare una pedina alternativa a Mutu, che forse dovrebbe rientrare nel corso del mese di ottobre. A questo ci aggiungi che Jovetic ha subito un grosso infortunio che lo terrà fuori tutta la stagione. Però vedi, quello che dicevo prima, Ubaldo, è che chiaramente sono tanti e sono pesanti le assenze della Fiorentina, però se sai qualcuno che hai questa situazione, esatto, sai che hai questa situazione di difficoltà, Mi sembra razionale lavorare un po' di più sulla fase difensiva, cioè cerchiamo di non prendere adesso che siamo in difficoltà, poi il resto lo vediamo, no? Certo, e ti dico, è un problema di testa, un problema di organico. Oggi al Franchi c'era una squadra, quella del Palermo, che era ben messa in campo, e c'era una non squadra, quella della Fiorentina, che era diciamo un gruppo di giocatori, di ragazzi spaventati, che ha la prima difficoltà, vedi, gran gol di Iridice da 30 metri è andata in bambola, quindi ha concesso il raddoppio a Pastore, e poi nello spogliatoio si sono guardati in faccia, avranno detto che cosa stiamo combinando, cioè cerchiamo di tirar fuori l'orgoglio. La torna in panchina, insomma, c'è anche un signor Mihalovic che di carattere ne ha da vendere. Effettivamente nel secondo tempo la Fiorentina è apparsa diversa, è apparsa un'altra squadra. Girardino ha trovato il gol, Girardino poi ha fatto anche un pasticcio, perché ricordiamoci quello che è successo con il rigore. Il rigorista nella Fiorentina, Lealic, ne ha battuti due in queste prime cinque giornate, andando a segno su entrambi, e Girardino voleva battere lui questo rigore. Sicuramente forse Lealic l'avrebbe sbagliato ugualmente, però è stata una situazione un po' strana, un po' quella che l'anno scorso vivemmo con Vargas, che praticamente si impossessò del pallone su un altro rigore. Cioè, da dire che Vargas, insomma, è un giocatore con tanta personalità. Se Girardino, che è un giocatore con altrettanta personalità, va a togliere il pallone, comunque cerca di mettere in difficoltà un ragazzo di 19 anni che ha la sua prima esperienza in viola, un po' di fastidio può averglielo dato. Sul dischetto. Ma certo, Baldo, fai benissimo a sottolineare questo particolare, che tra l'altro a me era sfuggito. Grazie ad Ubaldo Cianciulli da Firenze, 800 24 00 24. Vedo che c'è ancora lì Boriello, mi suggerivano giustamente dalla regia, oggi mica si poteva sostituire Totti, quindi per forza Vucinic lo lasci in panchina tutta la partita, quindi oggi per esclusione è toccata a Boriello. Non so se la pensa così anche Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ben trovato a te. Sì, lo penso anch'io, credo che il popone non si possa toccare più di una volta, ecco, quindi era abbastanza prevedibile questo cambio. Devo dire che lì in effetti il rischio che poi ci sia un posto, come dire, di troppo, cioè sia un giocatore di troppo per un unico posto, perché credo che questa staffetta fra Vucinic e Boriello la vedremo spesso in campionato. Sì, in questo momento fatalmente è un problema questo per Ranieri, perché diventa difficile comunque lasciare fuori uno come Vucinic, al di là del fatto che è entrato e ha risolto la partita con l'Inter, però anche tatticamente in questo momento diventa piuttosto complicato lasciarlo fuori. Boriello chi lo tocca a questo punto? E dunque il problema è lì, anche se, come dicevo prima, ieri Ranieri ha provato a nasconderlo un po' sotto il tappeto, però è un problema. Sì, no, ma non c'è dubbio che è un problema che genera la campagna acquisti, nel senso che si è creduto che con Boriello si sarebbe rafforzata la Roma, dove invece secondo me la Roma aveva bisogno in altri ruoli, soprattutto sulle fasce. Lì mi sembra che la squadra sia più debole, non sia stata rinforzata. E poi credo che sia un problema di tensione nella Roma, cioè la Roma ha delle cadute. ha delle cadute perché forse le aspettative sono molto alte e si viene da una stagione importante in cui si è quasi sfiorato lo scudetto, sapendo Roma la piazza, le attenzioni, le aspettative che si creano, diventa secondo me difficile gestire questo, cioè vedo in questo momento Ranieri un po' in difficoltà proprio nella gestione anche dell'ambiente. Sicuro, chissà se la pensa così anche un nostro ascoltatore che è in linea proprio da Roma. 800240024, Dario, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, io volevo fare un commento sulla Roma che purtroppo oggi Totti ha dimostrato che condiziona fortemente la Roma, nonostante io sia un grosso ammiratore di Totti, però sei un vero tifoso anch'io, della Roma, anch'io lo sono. Allora dico, sei un vero tifoso della Roma, deve capire che in questo momento lui è dannoso per la Roma stessa e quindi deve evitare di fare polemiche nell'ambiente e capire che forse è il caso di stare in panchina e magari entrare negli ultimi 20 minuti. Sì, oggi ha fatto un po' ridere il San Paolo, mi creda. Sì, oggi ha giocato molto male Francesco Totti, dannoso è davvero un parolone. Però io capisco, insomma, giocatori a Totti io associo sempre Del Piero, no? Perché arriva il momento in cui il campione, il campionissimo per il bene della squadra, soprattutto in certi momenti della stagione, e questo è uno di quelli per la Roma, ma forse anche per la Juventus, dovrebbe fare un passo indietro. Capisco però che quel passo indietro per uno di questo livello e per uno che ha un peso specifico sull'ambiente juventino o romanista di questo tipo sia molto difficile da fare, non è un passetto da poco, direttore. Sì, sì, no, ma sono d'accordo anche nell'accostamento. Detto che forse sono stati gestiti in maniera un po' diversa dai due, però se vado alla memoria anche il periodo, ad esempio, Del Piero con Capello, lì è un Del Piero anche più giovane, ovviamente, di oggi, le tensioni ci furono. Lì ci vorrebbe la fortuna, l'intelligenza, l'ipotesi che Totti accetti di farsi gestire in questa fase qui della carriera, cioè che affidi quelli che sono, diciamo, l'ultima parte ovviamente della sua carriera nelle mani di Ranieri, tenuto conto che Ranieri è romano, conosce la piazza, conosce la realtà in cui lavora, sa che cosa vuol dire Totti rispetto a Roma e alla Roma, e ha quindi secondo me tutti gli strumenti per gestirlo nel migliore dei modi. Cioè anche lui si dovrebbe un po' consegnare, affidare alle mani dell'allenatore la propria gestione, cioè non cercare una sua linea in questo. Matteo, senti questo messaggio che mi manda Giovanni. Nero Rocco direbbe che il grande problema di questa Juve è che segna troppi gol. No, ma è giusto, è il paradosso, il maestro di tante cose. Ci sta, Catenacciaro, uno che giocava con 5 attaccanti in squadra. Certo che stasera per la Juventus, ieri ho detto, mi è venuto in mente subito il parallelo col ciclismo e non solo perché c'era il mondiale oggi. Però mi sembra tanto per la Juventus la prima salita del Giro d'Italia, no? Quella su cui, per frase fatta, capisci chi il Giro d'Italia non lo può vincere. Ecco, io credo che per la Juventus sia la prima salita del Giro d'Italia. Sì, nei primi strappi certamente non ha risposto bene, nel senso che ha preso troppi gol questa squadra, che a volte ho avuto l'impressione di vedere sulla panchina della Juve Zeman e non Del Neri, che invece Del Neri era proprio un allenatore che faceva dell'attenzione, della cura, della difesa, del fatto di non subire molti gol, un punto di forza. Non scorso la Sampdoria, che in questa giornata era in testa al campionato con 15 punti, lo era anche grazie in virtù a un'ottima difesa. Non ha trovato evidentemente gli equilibri, l'organizzazione dietro, secondo me a volte con degli errori dei centrali, perché mi pare che Bonucci e che lì siano ottimi difensori, ma che qualche volta la chimica tra loro due non giri, non è vero. E nelle fasce, insomma, diciamo, in quelle che una volta erano i terzini, dove secondo me c'è il punto più debole in assoluto della Juventus, perché lì il mercato non ha portato un grande contributo, cioè Motta dal punto di vista difensivo non è così utile come lo può essere in fase offensiva, e dall'altra parte è rimasto un problema insoluto, dato col paradosso di aver dato via Molinaro qualche stagione fa per poi ritrovarsi scoperti proprio a sinistra. Per cui credo che dietro la Juve abbia i suoi problemi, mentre in mezzo al campo è una squadra che è destinata a crescere, poi questo Krasic che certamente ha dato un grande contributo, ma tutti i movimenti mi sembrano molto buoni, come davanti, poi il problema vero è lì dietro. Sicuro, stasera come la vedi? Con un Inter che, appunto, dicono gli spifferi da San Siro, non avrà Milito, ma Biabiani confermato, e confermata l'intera squadra che ha battuto il Werder Brema, quindi con il bimbo Coutinho in attacco al posto di Milito, e con Eto'o confermato principe cannoniere. Ma io vedo che questo Eto'o in questo momento è un giocatore insomma che è stratosferico, voglio dire, va e segna, quindi credo che sia un giocatore che può creare dei problemi alla Juve. La Juve domani deve avere la forza stasera di fare una partita veramente di collettivo, cioè di quelle che sono in genere squadre del Neri, quindi molto molto pressante sulle fasce, perché ecco, l'Inter mi sembra che se, quando viene attaccato in questa stagione non sia più invulnerabile come nella passata stagione, quasi per scelta, più attaccabile, mi sembra quasi per scelta di Benitez. Sì, ma poi Benitez vedo che intanto di tenere un pochino più alta la linea difensiva, cosa che invece Mourinho se ne fregava pur di portare al risultato finale. E questo ovviamente un pochino concede, cioè, e poi non dimentichiamoci che manca Samuel, che probabilmente, anzi sempre certo, probabilmente è il miglior difensore centrale dell'Inter. Certo. Grazie direttore, alla prossima. Grazie a voi. Matteo Marani, direttore della Guerin Sportivo, torniamo subito dopo il GR 800 24 00 24 per le vostre chiamate. A tempo di sport. Torniamo e sono tanti temi di cui discutere oggi, calcistici ma non solo calcistici. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Io vorrei tornare a parlare o cominciare a parlare in maniera un po' più approfondita e seria di Inter-Juventus con uno juventino mica da ridere. Max Pisu, buonasera. Buonasera, ciao. Devo parlare in maniera seria, hai detto, Ho ricevuto adesso un messaggio. Cosa dice? Il messaggio dice, ed Adriano sulla Roma naturalmente, Adriano cosa serve? Anche Gene Gnocchi ha finito le battute su di lui, tu ne hai qualcun'altra? Su Adriano? Sì. No, ne ho di battute, non solo ti fa che mi viene a pensare, mi viene a pensare solo come mai una squadra come la Roma non vada a pescare per un centravanti italiano forte, giovane magari, no? Posto di prendere un Adriano 10 kg in sovrappeso, eccetera, eccetera. Boh, vabbè. Stasera come finisce? Come la vedi? Ma se riusciamo a fare 5 gol, forse un pareggio lo portiamo a casa. Sì. No, secondo me l'Inter è super favorita, faccio tanti auguri agli interisti e all'Inter, anche per lo scudetto e la Champions naturalmente. Ma in fondo è divertente questa Juventus, Max? Sì, diverte, no? Diverte tutti, anche gli avversari molte sì, volte. Sì, anche col Palermo sono divertiti veramente. Un casino, sì. Ti dico. No, è una squadra che non sai mai, potrebbe fare qualsiasi risultato, insomma, perché comunque ha un gioco che dà spazio alle occasioni a favore e anche contro, perché comunque, vero col Manchester City che ha un attacco con Tevez e Adebayor sulla carta fortissimo, insomma, siamo riusciti a contenerli e abbiamo anche rischiato di vincere, quindi. Sì. E se ti dico Krasic, tu cosa dici? Krasic, la prima volta che l'ho visto giocare, dico questo è un fenomeno, a parte il fatto che ricordi Nedved, però lo si capisce quando uno ha una marcia in più, e lui secondo me ce l'ha e potrebbe essere il futuro della Juventus. E se ti dico invece scudetto di cartone, tu cosa dici? Moratti. Scudetto di cartone, sì. No, ma anche perché insomma, io l'ho detto prima, ma neanche scherzando, è che anche nel recente passato spesso i tifosi, tanto vituperati, talvolta ragione, hanno dato dimostrazioni di buon senso superiore rispetto a quella dei protagonisti. Sì, è vero, sì, secondo me, i protagonisti diciamo che hanno fatto di tutto per alimentare polemiche, cose che si poteva benissimo evitare, no? Anche quando non ce n'era bisogno, non hanno mancato mai insomma, l'occasione per ricordare certi episodi, certe cose. Beh, alla fine abbiamo fatto insomma, la Serie B, ci hanno fatto 2 scudetti, comunque gli juventini li sentono ancora certo, propri. E hanno tutti i diritti di rivendicare, ma nelle sedi opportune, secondo me. Sì, esatto. Alla fine è così, cioè i presidenti che facciano i presidenti, insomma l'Inter è più forte di tutte ancora, nel senso che sì, quindi non ce n'è bisogno, ecco, di tirare fuori tutte le volte quel discorso. Sì. A te manca Mourinho invece? Da uomo di spettacolo, da fine osservatore? No, secondo me no. Benitez mi è simpatico, nel senso un po' come Ancelotti, un giocatore comunque che prende il calcio per quello che è, fa insomma ritornare un po' tutti alla realtà delle cose. E il calcio è uno sport, è un gioco, non dico che già però con leggerezza, però insomma, perché l'atteggiamento di Mourinho alla fine era quello dei tifosi, dei giocatori in campo, era quella roba lì, sì, che ha portato alle vittorie, però comunque ti sentono, cioè, delle antipatie che l'Inter ne ha già abbastanza, non ci bisogna anche l'allenatore antipatico, insomma. Poi tu tifosi simpatici, c'è la Juventus, o no? Esatto. Senti, se non sono indiscreto, vai allo stadio stasera? No, stasera soffro a casa. Sei a casa? Soffro a casa. Soffri, sì, a casa da solo, chiuso nella stanzetta? Con mio figlio e con mia moglie, la bimba, ce la vediamo a casa sul divano. A casa sul divano. E prossimi lavori, così cominciamo ad annunciarli invece, da palcoscenico? Sì, prossimi lavori, c'è uno spettacolo teatrale nuovo, una produzione nuova, si chiama Amnesia, dove non faccio Tarcisio, ed è un lavoro nuovo, è sempre comico naturalmente, è scritto con Riccardo Pifferi, che sì, è l'autore e regista, e niente, comunque mi metto in gioco, ma comunque sono molto soddisfatto, ho già fatto delle repliche, quindi mi diverto e non vedo l'ora di portarlo a Milano. L'importante, insomma, è quello, divertirsi sempre, Max. Esatto, perché poi in questo lavoro, se ti diverti, la gente pubblica. Bravissimo. Si diverte. Come a giocare a calcio, stessa cosa. Lo sai, esatto. Vero, no? Esatto. Ecco, poi sono tutti, dimmi, come Ronaldinho, quel bel sorriso stampato quando si gioca. Sì, no? Però certe volte ti viene da dire, ma cos'ha da ridere? O no? Lo vedi lì che magari dopo che ha perso un pallone o ha sbagliato un'occasione da gol, ride. Simpatico, ma cos'ha? Cosa c'è da ridere? È vero. Grazie Max, in bocca al lupo. Ma grazie a voi e in bocca al lupo anche a voi. Un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao, grazie a Max, ciao. Pisu. Ascoltatori, ordunque, 800 24 00 24, il numero verde, caro Moreno, non mi importa nulla della media voto di Del Piero. Vado a vedere la media voto di Del Piero e poi commenti. Sono parametri che secondo me lasciano il tempo che trovano questi. Quelli dei voti e mica dei voti, eccetera, eccetera, eccetera. Io vedo nelle ultime stagioni quello che, insomma, bisognerebbe più che guardare i voti, chiudersi in una stanza con gli ex allenatori della Juventus, senza microfoni, senza testimoni, e farsi raccontare davvero cosa ne pensano. Flavio, Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io non posso ascoltare la radio adesso. Peccato. Però spero di non fare una domanda ripetitiva. Cioè, io ho sentito molti interisti. Sì. Abbastanza, non dico demotivati perché sarebbe troppo, però non più entusiasti, diciamo, come uno, due, tre anni fa. Temono la Juve più che altre volte, ma più che altro temono forse l'Inter, che non gli danno quella garanzia che forse, sì, Mourinho trasmetteva l'anno scorso. Sì, no, e quindi io mi aggancio da juventino appassionato a questa speranza. Proviamo a farci coraggio. In realtà l'Inter rimane la squadra più forte. Sul fatto che insomma sia qualcosa che si sta trasformando, sia una squadra che si sta trasformando forse anche troppo rapidamente, perché Benitez ha avuto una gran fretta di mettere la sua firma, la sua mano su questa squadra. Anche come modo di giocare, è un Inter che le dà e le prende forse un po' di più. Chiaramente quella di Mourinho era una squadra molto più attenta, molto più rabbiosa, alla fine molto più affidabile di questa, io credo. Stasera sarà una partita molto molto molto importante anche per questo processo di trasformazione dell'Inter. Grazie Flavio, 800 24 00 24. Adesso c'è il traffico, ma io non mi muovo di qui e vi aspetto. Eni vi presenta Strade in diretta. Traffico intenso a Roma, ci sono code verso la capitale su entrambe le diramazioni e verso nord lungo il tratto fiorentino dell'Autosole. Sulla 1 segnaliamo anche code per un tamponamento tra Attiliano e Orte verso Roma. Lungo la 15 della Cisa, code di 4,5 km per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla 4 Torino-Milano, 2 km di coda per lavori tra Rho e Arluno in direzione Torino. Ancora per lavori, code sulla 6 Torino-Savona tra Savona e Altare verso Torino, e sulla 10 Genova-Savona in direzione Genova tra Celle Ligure e Varazze. Sulla 14 Adriatica si rallenta per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Lavori e rallentamenti anche sulla diramazione per Pisa all'altezza di Navacchio in entrambe le direzioni. Per ora è tutto, più tardi. Promo 24. Ad ottobre si aprono le porte dei software gestionali che permettono a professionisti e aziende di eliminare gli sprechi e generare business. In tutte le province italiane, dall'11 al 17 ottobre, i rivenditori Team System aderenti invitano professionisti e aziende alla Tractive Tour 2010 per presentare le più innovative soluzioni gestionali sul mercato. Esclusive offerte commerciali sugli applicativi Team System saranno riservate a tutti i partecipanti, che potranno inoltre accedere all'estrazione di un tour del Messico per due persone. L'evento è in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dalla cui partnership è nato GECOM Start, l'applicativo specifico per i giovani professionisti. Informazioni, iscrizioni e regolamento su www.teamsystem.com. A tempo di sport. Ecco che torniamo, ma caro Aldo, che mi manda un messaggio: parlare della Lazio prima non c'è pericolo, ma mi chiami, siamo qui apposta, 800 24 00 24, è il numero verde, lo conoscerà anche lei. E parliamo della Lazio finché volete, perché il grande equivoco è questo, no? Ma datemi di voi gli spunti, ditemi voi di cosa volete parlare, perché devo sempre fare tutto il lavoro io da solo. Intanto io, prima di Fabrizio da Milano, che è un ascoltatore in linea, bravo Fabrizio, 800 24 00 24, Aldo aspetto anche lei, vi riepilogo le dichiarazioni più significative dei dopo partita. Se avete sentite bene, se non avete sentite ve lo dico. Ad esempio Ranieri: non abbiamo ripetuto il primo tempo, nel secondo non siamo più stati in grado di fare la nostra partita, relativamente ovviamente alla sua Roma a Napoli, dopo il loro gol ci siamo fermati. E dice anche: non avvertiamo rumori strani, sappiamo che deve arrivare un compratore, non tiriamo in ballo altre scusanti, siamo noi che stiamo sbagliando, la famiglia Sensi è vicina, sappiamo che non siamo la Roma dell'anno scorso, stiamo lavorando e ci riprenderemo, volevamo far bene ma il Napoli è stato più bravo di noi. Fa eco Borriello, che a proposito di rumori strani invece dice: non faccio polemiche, premessa, ma quando un giocatore esce è sempre dispiaciuto, specie se sta bene come sto io, sentivo che avrei segnato da un momento all'altro, mi dispiace perché quando sono uscito abbiamo preso i due gol, non perché sia uscito io, per carità, ma stavo bene, sentivo il gol in arrivo da un minuto all'altro, in ogni caso non siamo in crisi, la classifica è bugiarda, non so se quanto e fino a che punto. Mihajlovic che si assume le colpe, le responsabilità della caduta della Fiorentina: abbiamo regalato i primi 45 minuti ed è colpa mia, ha detto Mihajlovic, l'abbiamo sentito prima, siamo stati troppo timidi e cose del genere le paghi, poi siamo tornati a giocare con rigore, avremmo potuto pareggiare quando mancavano 20 minuti e chissà cosa sarebbe successo. Già, chissà cosa sarebbe successo, anche se come ci ha raccontato prima Waldo Cianciulli, Gilardino non fosse andato a disturbare il giovane, il bambino Ljajic, che è il rigorista designato e giustamente stava mettendo il pallone sul dischetto. È arrivato Gilardino e ha detto: questo lo tiro io. Ljajic: no, veramente toccherebbe a me. Morale, rigore sbagliato. E parentesi, Siri Guoja ha fatto un partitone, questo a beneficio anche di Cesare Prandelli. Fabrizio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare un'osservazione sulla Magnus League. Ieri ho assistito alla partita Aironi contro Edimburgo e mi è sembrato però che, vabbè, adesso non per fare il solito italiano, però un arbitraggio piuttosto parziale, perché almeno in due occasioni l'arbitro ha negato dei calci di punizione evidenti a favore degli Aironi, che avrebbero comunque cambiato le sorti della partita. La mia domanda è questa: lei non pensa che, diciamo, il mondo celtico, il mondo anglosassone in genere, si è ancora un po' prevenuto nei confronti del rugby italiano? Sì, credo di sì, però le faccio rispondere in cognizione di causa da Giacomo Bagnasco. Perfetto. Buon pomeriggio, Carlo, Giacomo. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, sinceramente sì, io non parlerei di prevenzione, però sicuramente è quello che è successo all'Italia quando è entrata nel Sei Nazioni. Per diversi anni si sono visti degli arbitraggi che, naturalmente facendo salva la buona fede, però sembravano mettere in conto che in un certo senso i giocatori francesi, gallesi, inglesi fossero adatti, fossero adeguati a quel livello di gioco, a quegli standard, non commettessero certi errori. Se uno parte da quel presupposto, magari certi errori, certe sbavature e anche certe infrazioni al regolamento non le vede. E punta la sua attenzione invece sulla squadra sulla matricola, sulla squadra appena arrivata, è molto più fiscale, e questo probabilmente è quello che sta succedendo anche al Benetton Treviso e agli Aironi, il Benetton che fortunatamente va molto meglio dei Aironi, ma comunque ha un certo numero di cartellini gialli. Nel dubbio spesso può capitare che l'interpretazione sia favorevole alla squadra avversaria e sfavorevole alla squadra italiana. Non è uno scandalo, sicuramente, e neanche la voglia di parlare per forza degli altri, però sicuramente, ecco, c'è questo scotto da pagare. Chiamiamola questa sudditanza psicologica, vuoi chiamarla così? Tassa d'ingresso. Tassa, ecco, d'ingresso mi piace molto molto di più. Bravo Giacomo, bravo Giacomo. Tassa d'ingresso mi piace molto di più. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima con Giacomo Bagnasco. Io torno a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Ennio da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io faccio una piccola osservazione per quanto riguarda il discorso di Ranieri. Sì. E le ultime tre passeggiate che è venuto a fare a Napoli, due volte ha cambiato due giocatori che sicuramente offensivi, come Del Piero quando era con la Juventus e oggi il francese, e mettendo dei centrocampisti. I risultati li abbiamo visti. Invece la cosa che chiedevo a lei era se vede una tappa di avvicinamento alla maturità del Napoli nella crescita complessiva. Lei? Ascolto per radio. Lei la vede? Lei la vede? Ennio, non abbia tutta questa fretta. Lei la vede? Io sì la vedo. In che cosa? La vedo, e devo dire la verità, la vedo anche come maturità nell'approccio delle partite importanti, che mi sembra qualcosa di migliorato. La rosa sicuramente... i giocatori che servono, però in un momento di crisi strutturale economica del paese forse anche andare con calma. Sì, andare con calma, però nell'ultima estate Laurentiis è andato giù abbastanza serio, nel senso che i giocatori li ha presi. Poi io sinceramente non mi aspettavo un avvio di questo tipo da Cavani, che continuo a pensare sia un grande giocatore con ancora notevoli margini di miglioramento, ma non credo in fase realizzativa. Mi ha sorpreso veramente la quantità di gol che Cavani è riuscito a segnare in questo avvio di stagione. Perché per me il punto interrogativo sul Napoli è sempre questo assetto offensivo che è fatto da tante magnifiche seconde punte. Non c'è una prima punta che garantisca un monte gol sicuro e adeguato. Adesso Cavani sta facendo gli straordinari, andrà avanti a farli per tutta la stagione, lo auguro a lui e ai tifosi del Napoli, però qualche dubbio ce l'ho, insomma. Non penso che Cavani possa essere giocatore da 20 gol, magari una stagione sì, ma o magari migliora anche da questo punto di vista, anche se mi sembra sempre una magnifica seconda punta. Lavezzi segna sempre con il contagocce, dunque un piccolo problema può essere quello. Non mi sembra, al di là della partita di oggi, un Napoli solidissimo dal punto di vista difensivo ancora. In settimana abbiamo visto la partita di Europa League, insomma, al di là della formazione, no? Avvio shock, però un quarto d'ora tre fischi e poi l'hanno rimessa in piedi, però non è da grande squadra ancora avere un avvio di partita di quel tipo, al di là dell'importanza che in questo momento è relativa, io credo, dell'Europa League per il Napoli. Dunque, prima di Massimo D'Alecco, 800 24 00 24, io farei un primo salto al forum di Assago, dove ci sono i Knicks che sfidano l'Armani Jeans, e dicevo nei giorni scorsi, insomma, partite dalle mille suggestioni, ci sono... è un grande incrocio tra due generazioni, no? Quelli che i papà che hanno visto vincere la Milano di D'Antoni e di Gallinari papà, e i figli che invece si sono magari innamorati dell'Olimpia guardando Danilo, che ha promesso tornerò per vincere, l'ha già detto molte volte, ce l'ha detto anche venerdì, anzi ve lo faccio sentire, sentiamo cosa ha detto Gallinari su questo argomento. Sarà una partita speciale anche per il discorso, come hai detto te, delle due generazioni che si incontrano. È chiaro che la Milano che hanno vissuto Mike e mio papà non è la Milano che ho vissuto io, insomma vorrei riuscire a rivivere la Milano che hanno vissuto loro vincendo, che non sarebbe male in futuro. Hai sentito, no? Mi sembra tutto molto chiaro. Credo anche che l'ambiente sia particolarmente bello. Dario Ricci. Sì, Carlo, buonasera dal forum. Come darti notto, ambiente spettacolare, ambiente e forum riempito proprio da quelle famiglie a cui tu facevi riferimenti, alla grande festa di Milano, la grande festa dell'NBA. Beh, pensa, poi abbiamo anche scoperto che un ricordo milanese anche nel cuore del commissioner David Stern. Pochi istanti fa, nella conferenza stampa, Stern ha ricordato che il suo primo viaggio all'estero da commissioner fu proprio qui a Milano, nell'accompagnare i New York Nets, era il 1984, prima sfida contro le scarpette rosse. Allora, ha detto Stern, finì con Daryl Dawkins che si prese sotto braccio un arbitro, sì, e attraversò tutto il campo. Dice, sì, stasera non andrà a finire così, ma sarà comunque una grande festa per tutti, lo sentite anche dalla musica che sta accompagnando il riscaldamento delle due squadre. 70.000 richieste di biglietti per questa partita, 10.000 i posti o poco più i posti al forum, fate voi. Dario Ricci lo ritroviamo naturalmente più tardi, così ci dà qualche aggiornamento anche sull'andamento della partita. Intanto lo stesso Dario Ricci ha intervistato pochi istanti fa Mike D'Antoni, uno dei due grandi personaggi, le due grandi suggestioni, massime suggestioni di questa partita. Vediamo cosa dice Mike. Coach, una grande emozione tornare a Milano, quanto affetto? Ma grande, come casa, venire a casa dopo 20 anni, ma sono contento di essere qui, spero che ho qualcosa di bello stasera. Difficile allenare con tante emozioni nel cuore oggi, eh? No, io faccio un cavolo, i giocatori giocano. NBA che inizia la stagione qui a Milano, quanto è importante questa partita dal punto di vista simbolico? Ma è solo simbolico, è una festa, non è una partita vera, diciamo, ma i giocatori giocano, sarà una grande esperienza per loro. Obiettivo stagionale per i suoi Knicks? Spero di playoffs. E faccio un cavolo, i giocatori giocano. Grandissimo Mike. Poi ingrigito perché gli anni passano per tutti, lui, classe 1951. Però quella luce negli occhi da Arsenio Lupin ce l'ha sempre. Altro che non faccio un cavolo. Massimo D'Alecco, eccoci. Pronto? Pronto? Eccoci. Sì, era una domanda sull'attacco dell'Inter, ritenendo, sì, l'Inter la squadra più forte d'Italia in questo momento, però ha dei problemi secondo me in attacco. Perché oltre a Milito, ho detto, non ha nessuno, perché riconsidero Baviani un giocatore mediocre, non da, sì, Inter, sì, e Pandev. Forse, Massimo, forse non ancora da Inter, o lei l'ha già bocciato definitivamente Baviani? No, io lo boccio definitivamente perché secondo me è un giocatore che non ha il passo da grande squadra, è un giocatore mediocre in tutti i sensi. Coutinho? Scusi? Coutinho? Coutinho è un giocatore che è un po' leggerino, poi magro, basso, comunque non lo vedo un goleador, quindi un giocatore che la mette dentro può essere solo nell'Inter Eto'o e Milito. Milito è fuori forma, infatti sta segnando unicamente Eto'o e Sneijder, perché Sneijder, vabbè, è di un'altra categoria, sì, secondo me è il giocatore più forte del mondo insieme a Messi. Il problema dell'Inter secondo me è proprio paradossalmente che abbiamo solo Eto'o in attacco, e non ci sono ricambi, perché Pandev è un buon giocatore ma è anche lui non un marcatore. Volevo sentire cosa ne pensava in questo no, senso. No, ma io sono d'accordo. Io sono d'accordo con quanto al di là della bocciatura così secca per Biabiani, che vorrei rivedere perché adesso non al passo, è un giocatore comunque un giocatore di fascia molto veloce, a qualcosa può servire, io credo. Coutinho deve crescere ancora tanto anche dal punto di vista fisico, certamente non è il Kakà appena arrivato in Italia, non è nemmeno il Pato appena arrivato in Italia, è un giocatore con caratteristiche interessanti, però non è un goleador come dice lei, e questo mi sembra piuttosto evidente. Torniamo sempre al solito punto, no? Balotelli è andato via, un altro non è arrivato, e Balotelli insomma non è un'assenza da poco, cioè non è stata una cessione da poco, anche dal punto di vista strutturale per l'Inter, perché era un giocatore che entrava in campo e ti spezzava in due la partita, che potevi gestire in mille modi, no? Sappiamo bene, è inutile stare a perderci su tutto quello che è fuori dal campo, tutte queste cose, però sul campo Balotelli è uno forte e che ha la caratteristica di quello che ti cambia la partita, quindi certamente lui è partito, nessuno è arrivato se non Coutinho e Bibiani, l'Inter un po' più debole davanti lo è, non ci piove. 800 24 00 24, un attimo di sosta, poi di nuovo qui. Eni, cultura dell'energia, energia della cultura. Il logo del cane a sei zampe di Eni, che Ettore Scola definì fedele amico dell'uomo a quattro ruote, fin dal 1952 rappresentò non solo la potente benzina italiana Super Corte Maggiore, ma divenne un elemento segnaletico di una nuova idea di stazione di servizio, assolutamente rivoluzionaria per l'epoca. Ne parlarono tutti i quotidiani e le riviste nazionali e presto il logo dell'artista Luigi Broggini, che vinse un concorso pubblicitario indetto da Eni, ebbe la forza di identificare non solo i prodotti, ma soprattutto lo spirito degli italiani di quel periodo. Una fiamma in grado di riaccendere entusiasmo, ottimismo e voglia di fare. Un logo raccontato in una mostra itinerante che ha già toccato alcuni luoghi legati a Eni da un punto di vista storico e culturale. Roma, Ravenna, Milano, Stresa, Mantova e adesso Venezia. La mostra ha l'obiettivo di raccontare la storia del gruppo dal 1953 a oggi, attraverso immagini, documenti originali, caroselli, memorabilia, filmati aziendali e vignette satiriche. Tutto proveniente dal ricco patrimonio dell'archivio storico Eni e da collezioni private. Un'occasione per rileggere le vicende di una grande impresa dalla sua nascita agli eventi più recenti e per conoscere la storia di uno dei marchi più noti dell'industria italiana. Il cane a sei zampe, un simbolo tra memoria e futuro. Dal 5 ottobre al 7 novembre nel salone da ballo di Palazzo Corrèle a Venezia, dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Maggiori informazioni su eni.com. 01 Distribution presenta. Lo stesso amore di quando erano ragazzi li aveva accompagnati fino ad oggi, nel territorio di mezzo della loro vita. Se c'è un modo perché la sua mente e la mia continuino a comunicare, io lo devo trovare. Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri. Una sconfinata giovinezza. Un film di Pupi Avati, dall'8 ottobre al cinema. Amore, ho comprato un nuovo box. Dai, per il bambino. No, no, per il caddy. Il miglior caddy di tutti i tempi, con nuovi motori Euro 5 che riducono i consumi e ESP di serie su tutta la gamma, ti aspetta presso i concessionari Volkswagen Veicoli Commerciali. E questo è il nostro impianto di illuminazione. Utilità festeggia 10 anni al servizio delle imprese per la fornitura di elettricità e gas. Chiedi un preventivo gratuito su utilita.com. Insieme troveremo la soluzione ideale per la tua azienda. A tempo di sport. Ma questa non ve l'ho ancora raccontata, ma lo faccio subito. Cassano oggi a Bologna, chiaramente il peggiore in campo oggi Cassano. Vi ho raccontato prima di un gol, forse il gol più banale della sua carriera, che ha sbagliato dopo essersi liberato, prima con un fallo e dopo con un paio di grandi giocate. Ebbene, ha saltato anche Viviano, porta spalancata con il povero Portanova che era lì fermo sulla linea di porta, e Cassano gliela ha tirata addosso. Bravissimo Portanova a tenere le mani dietro la schiena, a salvare in maniera del tutto pulita e regolare, ma Cassano un gol così non lo sbaglia mai nella vita, a meno che non sia davvero in pessime condizioni. Dunque Cassano è stato sostituito con mille ragioni da parte di Di Carlo, è entrato Pozzi a metà ripresa e lui non l'ha presa benissimo, è uscito dal campo senza passare a salutare nessuno, cioè è uscito da dietro la porta, si è infilato negli spogliatoi e buonanotte suonatori. Tra poco di nuovo ascoltatori, Andrea da Roma già in linea, poi ne arrivano altri 800 24 00 24. Invece io voglio chiedere a Pier Augusto Stagis se è deluso dal mondiale di ciclismo vinto da Uschhoff con Pozzato solo quarto, Italia che magari ha anche lavorato bene, poi il mondiale lo vince uno, che la Norvegia non è esattamente uno squadrone. Sei deluso? Ma è deluso, non so. Da appassionato di ciclismo no, perché la gara è stata molto bella, la trizzante fino all'ultimo, incerta, appassionante. Da italiano sì, perché speri, perché comunque si era messa bene. E io credo che la squadra di rete da Paolo Bettini abbia corso bene. Ha corso bene perché la strategia è stata pensata da Paolo Bettini, è stata messa in campo in maniera esemplare. Forse non è stata la strategia giusta, tu dici, a dirlo dopo è facile, in realtà delle perplessità le avevamo anche prima. Sì. Per assolvere Bettini bisogna dire subito che quello che passa al convento è questo. Sì, non ha lasciato a casa nessuno, secondo te, che poteva essere portato? Ma secondo me Ballana andava portato, perché comunque è un uomo che sarebbe stato utile alla causa. Che sa come si fa, no? Che sa come si fa, è uno che comunque è molto leale, molto forte, che sa lavorare e sacrificarsi per la squadra. Quindi per vedere, a dire, diciamolo pure, un Bruseghin utilizzato nel finale come è stato utilizzato, secondo me era molto più utile Ballan. In più mancava comunque un uomo veloce, poi probabilmente Bennati o Petacchi, ma diciamo Bennati perché Petacchi si era ritirato dalla Vuelta ed è stato per 10 giorni fermo e quindi non era in condizione e non poteva essere portato. Bennati probabilmente magari sarebbe anche arrivato sesto, ma in ogni caso avevi una freccia nell'arco da sparare e quindi potevi sperare qualcosa in più. io devo dire che alla fine, se dobbiamo guardare con molta lucidità, tutto è stato fatto in modo perfetto per portare nelle condizioni ideali Pozzato. È mancato clamorosamente Pozzato, perché nel momento in cui è scattato Gilbert, lui è rimasto sui pedali. Ne sono partiti altri sei e lui è rimasto sui pedali. Sì. Devo dire che poi è stato fortunato, perché oggi possiamo parlare che per pochi centimetri ha mancato la medaglia di bronzo. Sì. La verità è che la fortuna è stata quella che hanno ripreso Gilbert, e quindi il suo errore o comunque il suo la sua condizione non eccelsa è stata così medicata anche dalla sconfitta di Gilbert, che in realtà è stato forse di gran lunga, insieme a Cadel Evans, il più forte di giornata. Alla fine ha vinto Torrusciov, che è stato molto molto astuto, intelligente, ha corso sulle ruote e alla fine ha messo a frutto il suo spunto veloce su traguardi molto adatti a lui, che sono in leggera ascesa e dove bisogna veramente sprigionare grande potenza e grande forza. Peter Pan Pozzato non è ancora cresciuto, questa era probabilmente la sua grande occasione, non si è concretizzata. Tempo ne ha ancora, però deve crescere Pozzato, e anche alla svelta, perché qui in Italia siamo giovani fino all'età della pensione quasi. Pozzato è molto giovane in realtà, però insomma... un'occasione come questa può condizionarti non poco il futuro. Grazie Piero Augusto, alla prossima. Grazie a te, ciao Carlo. Grazie Piero Augusto Stagi, Andrea da Roma, Mirko da Milano, Nicola, provincia di Milano, 800 24 00 24, il numero verde. Buonasera Andrea. Buonasera, buon pomeriggio. Allora, la mia prendo spunto dalla partita Napoli-Roma, sì, che ho visto. Credo di dubbi meriti del Napoli, che ha gestito molto bene la partita, nonostante un primo tempo in cui la Roma comunque è riuscita a tenere bene il campo, anche il possesso di palla, però ripeto, nel secondo tempo il Napoli si è venuto fuori molto bene. Ho notato però che soprattutto anche da parte della Roma delle imprecisioni e comunque degli svarioni lì sotto porta, che secondo me non sono all'altezza del professionismo che giocatori del calibro della Roma, comunque in altre squadre di Serie A, dovrebbero possedere. Sì. Mi capita spesso di vedere alcune partite della Serie B, comunque le Andrea, qual è il problema allora secondo lei? Lei dice la Roma fragile difensivamente, ma qual è il problema? Guardi, il problema più che altro anche a livello di attacco, ho notato anche svarioni in attacco, ma comunque anche da parte del Napoli con Cavani. Voglio dire solo questo: nel Serie A mi capita di vedere magari meno pressione, meno velocità, come si vede in Serie A, ma più precisione sotto porta. Quindi magari il discorso, non so, volevo chiederle se c'è anche un atteggiamento mentale in questi giocatori professionisti che poi commettono anche questi errori, nonostante diciamo si preparino e siano comunque dei grandi professionisti. Si va a una velocità molto maggiore, Andrea, si va a una velocità molto maggiore, insomma è chiaro che è un gioco un po' differente man mano che si scende, insomma, fatalmente anche la qualità stessa degli interpreti è minore, è una banalità questa, però è un altro piano, un altro livello di gioco. Quanto a Roma, fragile difensivamente, la Roma mi sembra fragile tutti, innanzitutto mi sembra fragile di nervi in questo momento, le due vittorie con l'Inter e con il Cluj, pur non brillantissima, avevano costruito una specie di ponte, poi oggi è crollato a Napoli e immagino un'altra settimana non facilissima. Per Ranieri gli va bene che c'è la sosta, quindi avrà un po' più di calma, tempo e respiro per preparare la squadra. Grazie. Mirko Milano, buonasera. Grazie. Buonasera. A lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dica. Io sono uno dei pochi interisti, perché sembra così, che vuole lo scudetto del 2006. E spiego anche perché. Quello che perse Simoni anni dietro, penso fu... l'Inter meritava di vincere quello scudetto e non gli fu dato sul campo. Osservo un'altra cosa. La Juventus è la più grande squadra italiana. Ha vinto più scudetti, ha vinto due coppe dei campioni. Ma lei vuole dire che quello di Ronaldo Ceccarini, che ormai si perde nella memoria dei tempi, perché stiamo parlando di moltissimi anni fa, fu uno scudetto rubato all'Inter dalla Juventus? No, io osservo che quell'anno all'Inter, che secondo me era una delle migliori squadre con Simoni, aveva un Moriero strepitoso, aveva un Ronaldo... unico, è stato l'anno di Ronaldo, certo. Una grande difesa, un'ottima. Sì, sì. Io adesso io non insinuo niente, io prendo quello che mi dà la giustizia sportiva. Se la giustizia sportiva ha ritenuto che nel 2006 un corridore fosse doppato, due corridori fossero doppati, lo scudetto è andato all'Inter. Questa è la mia idea. Altra osservazione, e faccio gli auguri a tutti i tifosi della Juve questa sera, sì, è questa. Auguri in che senso? Gli auguri che possano vincere come ce li ha fatti Pisu. Pisu, no. Ecco, anch'io glieli faccio a loro. ma guardi, ma ci sta tutto. Io torno a ripetere nel recente passato, nella storia recente, quando ci sono tensioni di questo tipo, i tifosi hanno dimostrato maggiore maturità rispetto ai protagonisti. L'ho già detto molte volte negli ultimi due giorni, ci tengo a sottolinearlo e ribadirlo. Detto questo, ognuno ha diritto di sentirsi sulla pelle gli scudetti che vuole. Io credo anche che sia l'Inter che la Juventus abbiano diritto di fare le loro rivendicazioni, sia l'Inter che la Juventus, nelle sedi opportune che ci sono e che stanno lavorando. L'unica cosa che non trovo condivisibile è che queste che continuino, uso l'immagine di ieri per quelli che non erano all'ascolto, che continuino a tirarsi ortaggi pubblici da una parte all'altra del muro, perché queste sono, come si diceva ieri con Massimo Callegari, un po' delle dichiarazioni di comodo e di propaganda, ecco, di propaganda per ingraziarsi magari, soprattutto da parte della Juventus, una parte della tifoseria, visto che le cose non stanno andando poi benissimo. Sappiamo bene quanto il punto sia ancora estremamente, il nervo sia ancora estremamente scoperto per i tifosi della Juventus, e dunque sia buon gioco. Io eviterei, come scriveva ieri Franco Arturi, che abbiamo più volte citato, ma tacere no, in quel caso tacere sì, purtroppo non accade. Questo è il mio pensiero. Dica l'ultima e poi andiamo avanti. Vi saluto tutti. Sì. La Juventus ha vinto 28-30 scudetti, dipende dal punto di vista, sì, e ha vinto due Coppe dei Campioni. Il Milan ha vinto i campionati e ha vinto di Coppe dei Campioni. Il Real Madrid ha fatto uguale, il Barcellona uguale, il Liverpool uguale. Ecco, se fosse stata questa grande squadra, forse avrebbe vinto un po' meno di scudetti e un po' più di Coppe dei Campioni. Sì, poi ognuno lo pensa. No, ma va bene anche questo. La Juventus è arrivata molte volte in finale, ad esempio era una grandissima squadra quando perse quella di Atene, sfido chiunque a dire il contrario, era la squadra dei campioni del mondo più Platini e Boniek. Io credo che le Coppe dei Campioni diventate poi Champions League siano qualcosa di estremamente aleatorio, è loro bello, è loro fascino, però spesso le stelle ti dicono contro, e contano moltissimo, altrimenti il Milan ne avrebbe uno in più, cioè quella che aveva già vinto praticamente 3-0 all'intervallo, quando e dove ti succede che perdi quella Coppa dei Campioni. Nel calcio succede, bello per questo. Non starei a fare un malizioso sottinteso a questa Juventus pluriscudettata e con la scimmia della Coppa dei Campioni che è stata lì per moltissimi anni. Tocca a Nicola? Nicola, provincia di Milano, poi Paolo da Ferrara, poi Giuseppe da Livorno. Intanto hanno cominciato a giocare in Milano e i New York Knicks 9-6 per gli americani. Nicola, buonasera. Sì, buonasera. Darò, precisamente. Darò, perfetto. Darò. Giusto precisare. Sì, io volevo fare un'osservazione su Moratti, visto che c'è interview e delle dichiarazioni che ha fatto recentemente, anche se prima però devo chiarire due bagianate tra le bagianate che ha detto l'ascoltatore precedente, ne ha detto qualcuna di grossa. Voleva lo scudetto del 98 parlando di doping, quando si vada a informare la Juve è stata scagionata da tutte le accuse di doping. Nicola non faceva riferimento, sì, al doping, io penso. Faceva riferimento. Ha parlato del 98 di doping, quindi. No, non ha parlato di doping. Sì, ha parlato anche di doping. Io non me ne sono accorto. Sono andato con la mente a quel famoso rigore dei Ceccarini, eccetera. Ma non sul rigore. Non ho sentito. Comunque, per la precisione, chi aveva commesso reati e anche appurati in quel campionato lì era stata l'Inter con i suoi dirigenti di Oriali e Company, che hanno anche patteggiato una pena, quindi condannati per falsificazione di passaporti, sì, e di patenti false, quindi sì, quello era un reato, non è un'opinione, un reato, non mi faccia anche lei come fanno loro. No. Non mi ecco, no, quelli sono le chiacchiere da bar, tu rigore, bla bla. Questi sono fatti nella giustizia, andate a prendervi gli atti tribunali, ci sono. Non è stato squalificato Recoba, come in tutti gli altri paesi, i giocatori che hanno giocato con passaporti falsi, le squadre sono state penalizzate di una serie di punti, ma decine e decine di punti. Sì, ma in Italia, Nicola, ma li sappiamo, lei li ricorda, fa bene, con grande precisione, però li sappiamo, quindi, no? Sono argomenti da una parte e argomenti dall'altra, no? Ognuno sostiene i suoi, quello che dico io. Esatto. È che il cancan di questa settimana andava evitato, a partire da Paolillo, per poi andare avanti con Andrea Agnelli. Secondo me andava evitato, semplicemente. Poi ognuno vada in tribunale e si difenda, perché ne ha diritti. Se la Juventus ritiene di avere le ragioni di su quello scudetto, ma le faccia valere, perché è nel suo diritto, va benissimo, però non stiamo a farle pubbliche in questa maniera prima della partita, perché questo secondo me è sbagliato. Infatti io proprio quello che avevo chiamato inizialmente, proprio per l'osservazione delle interviste di Moratti, quando mi viene fuori con noi compriamo i giocatori stranieri piuttosto che le partite di arbitri. Ora io mi domando, questo lo dico anche a lei e a tutti i suoi colleghi della stampa, dei mass media, dei giornali eccetera, perché fate passare questa persona come la più limpida, pulita del mondo? Allora, questa è una persona che ha speso oltre 1 miliardo di euro nel modo più immorale possibile nel calcio, e lei dirà, sono soldi suoi. No, questo è da truffati oltre 700 milioni con il collocamento delle azioni Sara. Sì. Quindi quel miliardo di euro che ha speso per i giocatori, li ha truffati i risparmiatori, alla povera gente. Sì, c'è un processo in corso. Esatto, sappiamo le colpe. Nicola, c'è un processo in corso e arriviamo alla conclusione di quel processo, poi ne discutiamo. Mi sembra che non ci sia nulla di segreto, di nascosto, c'è per l'appunto un processo in corso, ci sono processi in corso anche a Napoli, arriviamo alla fine di quelli e poi ci saranno delle sentenze, no? Parliamo del processo di Napoli, va bene? No, non adesso, mi scoppia la testa, no. E ho il traffico in linea, se vuole lo facciamo dopo. Traffico. Eni vi presenta Strade in diretta. A Palermo, in uscita dalla città, è chiusa la 29 Palermo Mazzara del Vallo tra Tommaso Natale e Villa Grazia di Carini per il passaggio del Santo Padre in visita in Sicilia. 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova per un incidente tra Berreguardo e Binasco in direzione Milano. Code sulla tangenziale nord di Torino per un veicolo in fiamme tra Bruere e Savonera in direzione Milano Aosta. Sull'Autosole 4 km di coda per un tamponamento tra Attiliano e Orte verso Roma. Veicoli ora spostati in corsia di emergenza. Lungo la 15 della Cisa, 5 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla 4 Torino-Milano, 2 km di coda per lavori tra Roe e Arluno in direzione Torino. Code per lavori anche sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e Dolo Milano in direzione di Venezia. Ancora per lavori si incontrano code anche sulla 6 Torino-Savona, tra Savona e Altare verso Torino, e sulla 10 Genova-Savona in direzione Genova, tra Celle Ligure e Arenzano. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Io condivido la noia di un ascoltatore che viene espressa via SMS. Dio, che noia! Che noia sì, perché siamo ancora qui a parlare del rigore dei Ceccarini, del doping, dei passaporti falsi. Se tutto va bene, non abbiamo ancora parlato del gol di Turone, però non ho dubbi che prima o poi lo faremo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, mi annoio un po' anch'io, anche perché sono argomenti un po' vecchiotti. Luca Milano, buonasera. Buonasera. Io sono un interista, vorrei fare però un po' il romantico riguardo agli Juventini. Sì. Quello che stupisce è che la proprietà, che in quel momento forse era appena entrata in borsa, o comunque gli Agnelli, i fratelli, diciamo, erano un pochettino in una situazione particolare, non potessero neanche più occuparsi della Juventus, perché anche quando il buon Lapo Elkan ha avuto i suoi problemi, pareva ci fosse dietro Moggi, cioè la situazione era di questo tipo, era molto il potere di questa triade, e poveretto Bettega secondo me non c'entrava proprio niente, però era molto ingombrante. Sì. E secondo me sono proprio gli Juventini che dovrebbero essere arrabbiati con questo Moggi e Giraudo che gestivano le cose in questo modo. Dovrebbero fare una causa alla proprietà contro causa queste non, persone. Causa non lo so, in parte però è un punto di vista condivisibile, no? In fondo sono stati danneggiati, io credo, dai comportamenti che sono stati tenuti fino a prova contraria e sentenza contraria da dirigenti più importanti, da Moggi, no? Sì, sì, sì. Poi senza andare, poi senza andare a fare della dietrologia o della fantascienza, no? Con la storia di Lapo, quella lì mi sembra un po' fiction, no? Non lo so, e fondamentalmente nemmeno mi interessa moltissimo sapere se dietro la vicenda ci fossero Gianni Agnelli. Sì. Credo che una persona con quello spirito, per quanto sia stata la persona più navigata che la storia italiana dell'ultimo secolo, credo. Ecco. Ma guardi, Luca, al di là di Gianni Agnelli, a me ritornano sempre in mente le parole di Boniperti all'Assemblea degli Azionisti. Quindi quelle parole pronunciate da Boniperti, da Giampiero Boniperti, secondo me sono un punto importante nel rileggere, se volete, ancora una volta questa vicenda. Andiamo un po' di corsa perché ho Giuseppe da Livorno e poi vorrei fare un salto come sempre in Spagna. Giuseppe, dica. Sì, dottor Genta, buonasera. Buonasera. Senta, volevo alleggerire un po' i toni un po' pesanti di questa trasmissione, ecco, un po' drammatizzare un po', perché leggevo stamattina sul giornale locale, Tirreno a Livorno. Il Tirreno, certo. E la vera candidata allo scudetto del 2006 non è nell'Inter e nella Juve, ma è Livorno. Non l'ha letto, non lo sa, perché pare che sia la prima squadra, perché in quel campionato arrivò al settimo posto. Che non c'entrava nulla. Che non c'entrava niente, che non risulta mai in nessun tipo di intercettazione, non è mai nominata in nessuna intercettazione, quindi non avrebbe mai assunto a responsabilità, diciamo, di farei abbastanza il tifo, se me lo permette, per lo scudetto del 2006 al Livorno. Lei appoggia? Sottoscrivo. Se lei appoggia, allora portiamo avanti questa battaglia. Mi consideri uno di voi, non c'è dubbio. Se non altro per ringraziare di aver alleggerito un pelo i toni. Mi raccomando stasera, io spero davvero che succeda quanto ho detto gli ultimi due giorni, cioè grande lezione da parte dei tifosi, che facciano i tifosi come è giusto che sia, però grande lezione a quelli che hanno chiacchierato troppo in settimana. Filippo Maria Ricci invece si sta divertendo come un pazzo in Spagna con Mourinho. Boia de, così dicono a Livorno, no? Boia de, ma certo, scudetto a Livorno facciamo. Scudetto a Livorno, boia de, c'ho anche la fidanzata livornese. Lo vuoi anche tu allora? Sì. Mi sembra giusto, via. Ti sembra giusto? Comunque sì, mi sono divertito anche a ascoltare questo simpatico livornese. Ha ragione lui, comunque. Ha ragione lui, bisognerebbe dirlo a Mourinho. Scegliere una squadra, appunto, diciamo, completamente pulita e assegnare questo scudetto, così, e via. Certo, basta. Certo, sono d'accordo. Quanto a Mourinho, invece, che mi dici? Ah beh, anche battaglia qui si battaglia campale, battaglia campale con la stampa spagnola. Ma sì, però è stato veramente geniale. Da noi si usa solo un termine, ha fatto il furbo, perché si presenta lì col suo foglietto dicendoci che noi siamo dei privilegiati, che nessuno assiste a tante ore di allenamento come noi, e via dicendo, conferenze stampa e tutto, e poi voglio dire, ci ha fatto, dice sì, abbiamo fatto 5 allenamenti aperti di 90 minuti l'uno. Sì, ma in due lui neanche c'era, negli altri erano 4 giocatori della prima squadra. Cioè, non mi sembra proprio a livello qualitativo il migliore allenamento. C'era solo il suo amico Pedro León, Granero, Adán Dude, che non mi ricordo neanche, e Mateos. Sì, insomma, sì. Quindi un grandissimo attore, sempre insomma, fa la sua parte alla perfezione. Non fa nulla, non lascia nulla al caso, non fa nulla per caso, e questa settimana, dopo una lunga luna di miele, ha deciso che basta, che bisognava inasprire i rapporti con la stampa. Sì, ma l'ha deciso lui, non è che... ma sempre lo decide lui, Filippo. Ma sai, ma saprai che è così, no? Esatto, decide, no, lui, infatti, decide lui quali motivo, sono. Dico così, adesso decidiamo, diamo un giro di vita, via. Certo. Poi se la piglierà con Guardiola, con il Barcellona. Poi mi sembra che abbia già scelto un nemico interno in questo Pedro León. Sì, no? Grandissimo. Come Balotelli. Pedro León come Balotelli, no? Sì, però allora Pedro León non è forte come Balotelli. Sì, è un po' pigro forse, e si crede forse più forte di quello che è, però in realtà non ha le stesse prospettive che aveva Mario, ha 23 anni e non 18, e comunque sì, io mi sembra insomma che sia una grossa punizione per un piccolo pesce, insomma, certo. O per un pesce piccolo. E almeno con Balotelli c'era forse anche più un contraddittorio migliore, perché comunque Balotelli ha i suoi grilli per la testa e poteva rispondere a tono, insomma, sono nato sfoggiando una maglietta del Milan. Sicuro, sicuro, Filippo, ti ringrazio. Grazie a voi, un abbraccio. Devo chiudere, andrei avanti per ore con Filippo Maria Ricci. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleoni in regia, a Tempo di Sport una domani alle 2 con Gigi Garanzini. Su Inter Juventus invece vi aggiorniamo naturalmente nei GR della sera. Buona serata a tutti. A Tempo di Sport.